Allora, prima parte di questo dibattito, cioè la prima sezione di questo dibattito che ha parlato, cioè che si è interrogata soprattutto sui linguaggi utilizzati per narrare il presente, ovviamente non ha potuto non sconfinare in una questione più pratica, più pragmatica, che è quella che dà il titolo poi a questa seconda parte del dibattito, che è dalle parole ai fatti, una proposta politica. Si è parlato di contenitori, si è parlato di pubblico, si è parlato di linguaggi e di interpreti. Io vorrei, con le case editrici che sono qui presenti, provare a recuperare quest'ultima parte del dibattito. L'editoria può essere uno strumento per ricostruire queste comunità politiche senza pertanto essere autoreferenziale? Una domanda forse difficile da rispondere, che poi ne nasconde una anche molto più provocatoria: qual è il ruolo delle case editrici che fanno militanza politica all'interno del contesto attuale? Partiamo magari da questo e poi proviamo a ragionare anche su altro. Non so chi vuole cominciare, andiamo in ordine. Ah, sì, ti ho detto anche prima. Abbiamo Shake Edizioni, abbiamo Agenzia X, abbiamo Zero in Condotta, Milio e Meltemi. Iniziamo da di qua, da sinistra, giustamente. Ma speravo di essere ultimo, perché la domanda è di quelle complicate, diciamo. Quindi ci dovevo riflettere. Però diciamo che l'editoria pone una serie di problemi, ma probabilmente le questioni centrali sono due. Da un lato il fatto di riuscire, poi dipende se uno si muove nel campo della saggistica o della narrativa, Meltemi si muove nel campo della saggistica. Da un lato è quello di arricchire il proprio catalogo, avendo cura di fare i libri bene. Per bene intendo il fatto di curarli bene, anche per rispetto nei confronti degli autori, quindi investire tutto il tempo e tutte le risorse necessarie per fare in modo che il libro che poi viene pubblicato sia un bel libro anche dal punto di vista del manufatto e dei contenuti. E questo è un primo problema, e quindi riuscire a tenere, ciao Mattia, e quindi riuscire a tenere, diciamo, un catalogo che sia anche espressione poi della linea editoriale, che a volte diventa anche linea politica per chi come noi non è un editore espressamente militante, di tenere una linea editoriale che sia coerente. Quindi da un lato coerenza nella linea editoriale e dall'altro cura del manufatto, cioè del libro fisico che poi viene dato alle stampe. Dall'altro c'è un problema che è un po' più complesso, che ha a che fare, ed è un aspetto sul quale ad esempio Meltemi ha ragionato lungamente sin dalla sua nascita, che ha a che fare con l'attività dell'editore come, diciamo, di qualunque altra attività merceologica, cioè la produzione di libri non sfugge ai meccanismi del capitalismo, e quindi il fatto che una casa editrice possa rimanere in piedi è dato dal fatto che alla fine del mese o alla fine dell'anno, tirando le somme, viene fuori che i ricavi sono superiori ai costi, se no ovviamente la casa editrice non sta in piedi. E talvolta, quando si gioca sul filo sottile, sul crinale, sul confine tra editoria militante ed editoria classica, il problema è che chi lavora all'interno delle case editrici, soprattutto quando sono su questo crinale, su questo confine, non sono adeguatamente trattati dal punto di vista contrattuale e retributivo. Ecco, io credo che questi due aspetti debbano marciare compatti, unitamente, cioè si devono fare dei bei libri coerenti con la propria linea editoriale, curati bene al loro interno, e al tempo stesso le persone che lavorano per quella casa editrice devono essere trattati adeguatamente dal punto di vista salariale, contrattuale. Perché se non si fa questa cosa, cade ad esempio per chi gioca appunto su questo crinale, su questo confine tra editoria militante e editoria classica, diciamo, di mercato, cadono un po', come dire, cade il velo. Allora, ad esempio, una delle logiche che, parlo di Meltemi perché sono anche orgoglioso del nostro gruppo di lavoro, è che tutte le persone che lavorano in Meltemi sono assunte con un contratto a tempo indeterminato della grafica editoria. Quindi ecco, diciamo questo, hanno la malattia, hanno la previdenza, hanno il TFR, hanno le ferie pagate, queste cose qui. Perché il rapporto è un rapporto tra lavoratore e imprenditore, anche se questo imprenditore magari a volte un po' scalcagnato lo è, diciamo, a volte diciamo non riesce a tirare la fine del mese, ma visto che non è stato investito da Dio, diciamo, in questa missione di fare i libri, ma se l'è scelto da solo, se decide di fare l'imprenditore editoriale, poi deve essere anche in grado di pagare adeguatamente i suoi lavoratori. Ecco, diciamo che se c'è un futuro da questo punto di vista rispetto a quello che dicevi, si muove in questa direzione. Riuscire a trovare un punto di equilibrio tra questi due aspetti rappresenta forse, diciamo, una possibilità anche per ridare entusiasmo ai tanti che magari nelle università, ma anche semplicemente nella militanza politica che forma a volte tanto quanto e forse meglio dell'università, quelli che si avvicinano, diciamo, a questo bellissimo lavoro. Questo è quello che penso. Allora, anch'io avrei preferito essere l'ultimo, purtroppo mi tocca la seconda tranche, perché è una domanda davvero su cui credo che ci stiamo interrogando da se vuoi parli tu, no, finisco, poi ti passo. No, nel senso, ci stiamo, noi credo dall'inizio, in cui la mia edizione è nata 13 anni fa, e questo tema chiaramente l'abbiamo sempre affrontato a livello personale, cioè nel senso, arrivando tutti da esperienze, se non di militanza, comunque di partecipazione politica, l'idea di lavorare coi libri è sempre stata collegata in qualche modo alla capacità di intervenire sul dibattito politico e al fatto che i libri potessero essere degli strumenti per cambiare anche il futuro. E però non vorrei essere quello più impopolare, ma mi sembra che invece questi anni abbiano rappresentato un progressivo distaccamento da parte di quelli che sono i luoghi della militanza, come anche questo, come tanti altri, rispetto a un certo tipo di editoria. Cioè noi ci occupiamo di storia principalmente, di memoria, di luoghi, quindi credo che sia una linea editoriale prettamente politica quella che facciamo, ma abbiamo avuto molta difficoltà in questi anni a relazionarci con certi ambienti dove appunto anche il tema, insomma, noi affrontiamo il tema della cronaca nera, della criminalità, che insomma sono visti spesso anche con un certo sospetto in certi luoghi, in certi momenti. Quindi devo dire che sono stati in realtà un po' anni di disillusione rispetto a questa tua domanda di come la militanza politica si può relazionare col lavoro editoriale. E soprattutto sono stati anni di disillusione rispetto anche a quelle etichette. Più che di editoria politica, in questi anni si è parlato di editoria indipendente, e mi sembra che invece su quel versante si poteva lavorare, sono stati fatti dei tentativi, ma non sono andati in porto, nel senso che ci troviamo a lavorare su un mercato che è uguale per tutti, con le stesse regole, in cui i piccoli, insomma, come siamo noi, fanno molta fatica, e se non si attuano dei processi anche di associazione, di collaborazione, di cooperazione tra le realtà editoriali, credo sarà sempre più difficile andare avanti. Anche tu non vuoi parlare? No, passo agli altri. No, vabbè, visto che non sono l'ultimo, quindi va bene così. E, allora, io sono di Zero in Condotta, e entro anch'io, seguo anch'io la scia delle presentazioni di fatto che sono state fatte delle case editrici e dei problemi che sostanzialmente incontrano, hanno incontrato e così via. E credo che le domande che tu hai posto, ecco, quindi le riprendiamo dopo, direi di finire questo giro e quindi io seguo. Perché non so se se questo è interessante per il pubblico, quello di andare a scandagliare una dimensione prettamente economica che fa parte in realtà della vita quotidiana di ognuno di noi, a prescindere, cioè a seconda del lavoro che facciamo. Poi va bene, se vogliamo fare questo giro di lamentazio, lo facciamo. La domanda in realtà era ben altra. Il fatto che Conchetta abbia voluto organizzare questo festival e invitare degli editori politici perché è interessato a vedere quello che voi fate, non in quanto prodotto, ma in quanto evoluzione di un pensiero, di un'idea, di un sentimento, di una sensibilità. Poi che questa venga mercificata dal mondo capitalista, ragazzi, mi sa che ce ne siamo accorti tutti, ecco. Poi, vabbè, dite quello che volete. Allora, beh, io come zero in condotta entro un po' in questo discorso qua. In che senso? Noi siamo un'associazione culturale. Siamo un'associazione culturale senza fini di lucro che si è costituita nel 1988 e tra le tante cose che fa produce anche dei libri. Ma li produce in modo diverso. Io adesso non entro nel merito, non mi interessa sviluppare nessun confronto, perché non è questo il terreno. Ci tenevo semplicemente a spiegare quello che facciamo noi. Noi come associazione culturale senza fine di lucro ci basiamo sul lavoro volontario. Quindi chi collabora, chi partecipa a questo tipo di attività lo fa su una base prettamente volontaria, di interesse alla tematica, di interesse a quello che si porta sostanzialmente avanti. Cos'è che noi portiamo avanti? Zero in condotta è collegata in modo stretto a una componente del movimento anarchico ed è stata voluta da questa componente nel 1988 per l'appunto, e da allora ha prodotto 150 titoli con una distribuzione ovviamente molto militante sui banchetti con qualche piccolo distributore che cura la propagazione del libro, la diffusione del libro in certe librerie alternative, centri sociali e così via. Quindi questa è la nostra distribuzione e questo è il nostro contenuto. Allora, il problema delle domande che sono state poste è un tema assolutamente importante, però il problema è che oggi come oggi, domanda da 100 pistole, che ruolo può avere l'editoria all'interno della costruzione di un progetto politico? Cioè, nel senso, questo qui mi sembra un problema grosso, nel momento in cui, diciamocelo, la carta stampata sta precipitando. Sta precipitando, non so voi, ma da quello che sento, da quello che registro, ma anche quello che ha detto lui praticamente sulle difficoltà di collegamento, della necessità di una relazione tra case editrici indipendenti e così via, si dice sostanzialmente che oggi come oggi si legge sempre molto, sempre di meno, no? Questo è un problema che secondo me non si può mettere nel cantuccio, è un problema grosso, è un problema grosso. Oggi come oggi il digitale la fa da leone, no? E facendola da leone vuol dire che sposta le modalità di comunicazione e di confronto su un piano che è diverso da quello del cartaceo. Proprio la stessa mentalità e la modalità di affronto del tema politico ha un altro taglio, un'altra sfaccettatura. Questo, secondo me, è il problema grosso che noi, su cui noi ci misuriamo e che, in un modo o nell'altro, ci costringe a una riflessione continua. Io credo che non ci siano delle risposte oggi immediate. Siamo all'interno di un processo di trasformazione. Questo processo di trasformazione si sta sviluppando anche in direzioni molto, molto complesse, come quelle dell'intelligenza artificiale e così via. È un processo che dobbiamo assolutamente non relegare, ma viverlo fino in fondo, no? Per capire le sue possibilità, le sue potenzialità e le sue negatività. Questo qui sostanzialmente è, credo, il tema. Poi, essendo una realtà che è legata a una componente politica, è evidente che si lega a un progetto politico. Non è che è campato in aria, il progetto politico è quello dell'autogestione, è quello dell'azione diretta, è quello di propagare un concetto di volontarietà nei processi di trasformazione e di rottura rivoluzionaria. Ma questo credo che è inutile che lo dica in questa sede, credo che lo sappiano tutti quanti. Detto questo, passerei il microfono. Grazie, bellissimo intervento. Io sono qui un po' a disagio perché siamo tutti uomini, Forse era meglio che andava nell'altra, meno male che c'è Carlotta. Però sono contento perché il primo dibattito è venuto molto bene, sono contento anche perché da anni che dico che piuttosto nei festival letterari, piuttosto che parlano gli autori e le autrici che guardano il proprio ombelico, forse è meglio che parlano gli editori a questo punto, perché comunque hanno uno spettro un pochino più grande e di solito non sono troppo egocentrici, almeno non dovrebbero essere gli editori. A mio parere, un programma politico, io sono Filopat, sono un personaggio dei fumetti, il programma politico, di certo non posso avere neanche un'idea di un programma politico. Però è anche vero che secondo me l'incontro tra editori può portarci in un ambiente dove non c'è più tanto l'io, ma c'è il noi. Il noi è da ricercare. Quindi il noi editori, nel nostro piccolo, possiamo cominciare a riconoscerci, come tipico della controcultura e punk, se riconoscevano dal primo sguardo, anche noi editori potremmo riconoscerci in un noi. E poi siamo in un posto qua che c'è noi, il noi collettivo di Conchetta, a cui direi di fare un grande applauso perché è un posto. Grazie ai tanti militanti e militanti che sono qui. La ricerca del noi è la roba più importante in questo momento. È un noi che da editori può essere noi e il nostro rapporto con le autrici, con gli autori. Noi. Non è più un rapporto verticale tra l'editore e l'autore. Anche se tante volte gli editori fanno fatica a contenere gli ego, lo sappiamo benissimo, no? È un lavoro di tipo culturale. Prima l'intervento di Mattia, di Momo Edizioni, cercava di arrivare su questo concetto del noi. È un noi che poi possiamo allargare ad esempio a tutti i lavoratori dell'editoria domani, lunedì c'è uno sciopero, Books Don't Not Bomb, che è un tentativo di molti lavoratori del mondo dell'editoria, bibliotecari, librai e tutto il resto, c'è qui Abo che potrebbe parlarne, che scendono in piazza per la Palestina. Ecco, il noi, come diceva Vittorio Arrigoni, noi che restiamo umani, e che scendiamo in piazza ormai 3 volte alla settimana per la Palestina. Questo noi che dovremmo tentare di riconoscere e forse anche magari andare in piazza con loro, visto quello che sta succedendo, visto che la Palestina in questo momento è il simbolo della tragedia umana in cui ci siamo scaraventati in questi ultimi 2 anni. Questa ricerca del noi è secondo me primaria su tutto, e quindi gli editori che parlano, che si riconoscono, che ad esempio l'intervento di Matilda di Eris prima mi ha riempito il cuore, perché non conoscevo molto bene Matilda, ma ho capito che siamo un noi anche con lei, anche con tutto quello che fa Eris, e io spero proprio che questo modello inventato dal collettivo che ha organizzato questa cosa è esportabile almeno in tutti gli altri centri sociali. Proviamo a far parlare gli editori, che secondo me hanno sempre qualcosa di interessante da dire. Ho sempre parlato, persino gli editori, quelli del PD, che alla fine dico sono delle brave persone. Ho sempre pensato così. E questo è un appello. Poi avrei da dire un'altra cosa, ma dopo. A 5 minuti, ancora 5 minuti. Allora, posso. Per tutti gli altri ho fatto un intervento breve, allora. No, facciamo così, passo dopo. Se Filopat viene dal mondo del fumetto, Gomma, che sono io, viene dal mondo del caucciù, quindi sulla questione della proposta politica sono messo ancora peggio. Io faccio parte della di Shake Edizioni, che è nata qua in Conchetta, e adesso vorrei fare un po' una provocazione sulla questione appunto della proposta politica. Sono d'accordo con Marco, che è stato mio compagno di cammino insieme a altri qua presenti, inclusi i vecchi conchettari, e devo dire che mi scuso per non aver riconosciuto Manolo, ma la vecchiaia mi ha dato, però secondo me lui ha posto un problema importante sulla questione poi della strutturazione, quando tu ti trovi a gestire una casa editrice con per esempio dei volumi o un impatto sul mondo dell'editoria circostante. Non è il caso di parlarne qua, però magari altrove sarà il caso di parlarne, perché secondo me è stato uno dei punti che ci ha bloccato. E mi ricordo un famoso dibattito che c'è stato proprio qua in Conchetta, mi sembra nel 96, proprio su questo tipo di tematiche. Rispetto però alla questione della... ho iniziato a menarmela quando mi hanno detto di che cosa, su cosa avrei sarei dovuto intervenire. Allora, qua la mia idea è che secondo me gli editori è meglio che non si incasinino con la questione delle proposte politiche, ma che ne stiano fuori e che piuttosto lavorino sulla creazione di coscienze. Vi faccio questo esempio che è proprio molto conchettaro, ovvero che qua in Conchetta, sulla spinta di alcuni proprio di libri, abbiamo fatto a partire dal 92-93 fino a circa al 95-96, delle iniziative molto importanti che hanno avuto una ricaduta a livello internazionale sulla questione del digitale. Questione non so chi c'era, però abbiamo portato qua l'accesso alle reti prima, non solo noi, la cosa era sparsa un po' in luoghi come questi d'Italia, però sempre legata a dei progetti editoriali. E abbiamo spinto senz'altro sulla questione politica. Mi ricordo a un certo punto dovevamo arrivare al dunque comunque, perché qua c'erano i vecchiacci come me, se lo ricorderanno. Non ci stava la gente da tanto che questa roba era sentita, e purtroppo non siamo riusciti a trasformarla in una proposta politica che fosse consistente. Io mi ricordo una cosa che alla fine è stata abbastanza umiliante, cioè siamo andati in comune, in quel periodo lì era il periodo in cui a Milano tiravano i cavi di Metroweb. Non so se sapete, tiravano i cavi della fibra, no? Che è quella che adesso praticamente si basa l'accesso internet di tutti noi. Allora, siamo andati lì eravamo forti in quel periodo lì, cioè eravamo numerosi, forti, convinti, eccetera. Facciamo sta riunione a Palazzo Marino, c'erano 200-300 persone, e la nostra istanza era molto chiara. Noi abbiamo detto, visto che questi di Metroweb usano dei tubi che, se non mi ricordo male, erano praticamente cablavano intorno ai tubi del gas, e quindi utilizzano delle infrastrutture pubbliche, noi chiediamo che tutte le associazioni non a fine di lucro, il volontariato, eccetera, possano avere accesso gratuito a internet. Ora, quella roba lì, in comune, sostanzialmente ci hanno presi per il culo, non è successo niente, e poi è per quello che vi dico, perché quello è uno dei miei rimpianti, ve lo devo dire, più grossi, che ci siamo sbattuti come le bestie, abbiamo tirato fuori idee della Madonna, e la questione del digitale voi la vedete oggi com'è, cioè che i padroni del mondo oggi sono quelli che si sono attaccati a quella roba lì. Quindi io diciamo che l'ho fatta, mi sono divertito, lo rifarei, è stato bellissimo qua in Conchetta, siete stati bravissimi, eccetera. Però forse avremmo dovuto tenere un passo indietro rispetto a quella cosa lì. Invece un'altra roba che mi è sempre un po' conchettara, che è stata la storia di Taz, che è un altro libro importante che qua di cui qua si è parlato, è venuto a Kimbei, c'era strapieno di gente, però TAZ è un concetto che non puoi gestire da solo, no? È una roba che tu lanci, la zona autonoma temporanea, tu la lanci nel mondo. E quella roba lì che la gente va in giro, fa casino, si forma le sue zone temporanee, insomma che non c'è nessuno dietro, in primis l'editore che dice tu che cavolo devi fare. Quindi tu lanci un sasso nello stagno e secondo me quello è il tuo lavoro. Se c'è una roba che, per chiudere, se c'è una roba che a me in questo periodo dà tantissimo cruccio è la questione linguistica, infatti avrei voluto intervenire un pezzettino anche sulla questione di prima. Sulla, c'è una roba che mi dà tantissimo fastidio e che è rivenuta fuori con forza per la questione dello sgombero del Leoncavallo, ma in realtà è stata preparata dal punto di vista linguistico e ideologico, quindi non penso, come è stato detto prima, che quelli di destra non capiscono un cazzo. Anzi, se la sono preparata bene perché lavorano con costanza su dei concetti, e uno di questi che proprio mi ha mandato nei matti, tanto che ho scritto un articolo rispetto a sta roba qua, che è quello della legalità. E che è stata la bandiera che la destra ha sventolato per fare uno sgombero. Ora, secondo me, bisognerebbe avere la forza, ma concreta. Io infatti quello che ho fatto è stato di scrivere a Mazzali, che è l'avvocato del Leoncavallo, per dirgli oh, va che finché ce la meniamo così male sulla questione della legalità, e invece non la rovesciamo sulla questione dei diritti, dei bisogni, e che cazzo, se occupo un posto è perché c'ho un bisogno, secondo me non ne usciamo più. Quindi ribadisco il mio concetto, secondo me l'editore deve creare coscienza, tutti gli editori che ci sono qua, secondo me fanno benissimo il loro lavoro, sono abbastanza convinto che il noi che, di cui parla Marco è già abbastanza, potrebbe magari essere più presente, però è già abbastanza presente, secondo me ci si riconosce e anche ci si legge. Ha un'ultima roba, visto che vedo qua Erduca, con De Roma, del Forte Prenestino, devo dire che a distanza, io sono quasi 40 anni che, no non quasi, 40 anni che sono nella storia dei libri. Presentazioni di libri così belle e così potenti come avvengono in questi posti non mi sono mai capitate. L'ultima al Forte Prenestino, dove per parlare di un libro c'era anche Marco, poi c'è stato un rave, non so, c'erano 5-6 mila persone. E la cosa che non capisce, cioè si dice i giovani non leggono, ma perché c'è la dinamica che tu cerchi di arrivare ai giovani, ma tu devi fare venire i giovani da te. E quella sera al Forte Prenestino io veramente sono rimasto, cioè il Duca lo sa perché ero impazzito, sono venute centinaia di diciottenni, ventenni che per la prima volta hanno preso in mano TAZ. E io spero che questa roba abbia disseminato, e poi saranno loro che decidono quale percorso politico attivare. Allora, se, non so, c'è qualche editore che vuole il mio parere, no, io avevo forse una mezza domanda, un qualcosa, anche rispetto a quanto è uscito prima con la prima tavola rotonda e a quanto avete un po' detto voi, cioè penso sia innegabile che c'è uno scollamento abbastanza grosso, comunque una lontananza tra il mondo dell'editoria, dei libri e... non le chiamerei le nuove generazioni, semplicemente un pubblico, delle persone che leggono. E, è una questione di linguaggio e non lo so, mi stavo chiedendo se è stato detto, appunto è stato fatto l'esempio del teatro sperimentale, che nel momento in cui si è di fronte a una crisi o a un cambio di rotta, se si vuole, cioè appunto per agire, visto che stiamo parlando di pratiche, se non fosse il momento di mettere in campo qualche, appunto, qualche tattica, qualche diversivo per forse tornare a mischiarsi, perché appunto io sicuramente, cioè, riconoscersi tra editori, però probabilmente c'è anche il bisogno di riconoscersi con in un senso di classe, probabilmente, cioè, quindi con la gente, con la strada, con chi fa non lo so, anche con i bisogni e con chi lo esprime. Cioè, voi avete anche la non lo so, il privilegio forse di poter, attraverso quello che pubblicate, che scegliete di pubblicare, di far parlare persone, e cioè questa è già una forma di azione. Chi l'ha fatto? La citazione era quella. Allora, il problema è necessario assolutamente un rapporto con la realtà, no? Ed è evidente che la realtà che interessa a noi è la realtà che è più disponibile a un processo di rottura sociale, a un processo di trasformazione sociale. Non ci interessa una realtà generica, no? Ci interessa quel tipo di realtà, e su quel tipo di realtà cerchiamo in un modo o nell'altro di costruire delle relazioni, perché quello è fondamentale. Noi non siamo per l'indottrinamento, non ci interessa l'indottrinamento, ci interessa evidentemente dare stimoli, sviluppare, dare elementi di conoscenza, soprattutto anche su quella che è tutta la grande esperienza storica del proletariato mondiale, nei suoi percorsi, le sue vittorie, le sue grandi sconfitte. Questo è un elemento che permette anche di dare e ritrovare elementi su cui sviluppare dei percorsi, no? Intraprendere dei percorsi. Questo è fondamentale. Quello che facciamo noi, per esempio, è di dare importanza nel nostro lavoro di ricerca saggistica ai processi rivoluzionari, alle trasformazioni che si sono verificate, alle contraddizioni che si sono sviluppate all'interno di questi processi, per esempio. Ovviamente la Comune, la Rivoluzione Russa, la Rivoluzione Spagnola e così via. Sono tutti temi che, per esempio, negli affrontarli, secondo noi si riesce a ritrovare dei fili che possono avere ancora oggi un valore, un significato, anche nella grande trasformazione e mutazione che abbiamo avuto. È inutile che uno si ricordi di quello che era il 68, no? Che non mi interessa parlare di quello, io l'ho vissuto il 60, ma non è quello il problema, non è che bisogna ritornare allora. Ogni generazione si trova a misurarsi con dei problemi nuovi, quindi anche la riproposizione della storia non può essere una storia legata sempre a una lettura vecchia. Bisogna sempre, anche nell'interpretazione della storia, misurarsi con i fatti concreti dell'oggi, no? Questo è un po' il problema. Non è un lavoro evidentemente semplice, però il tentativo è quello di far sì che queste relazioni che si costruiscono poi riescano ad avere una maturazione tale da poter costruire nuove coscienze, nuove forze, nuove energie per dare impulso ai movimenti là dove ci sono, o da buttare dei germi affinché dei nuovi movimenti sorgano. Ecco, questo è un po' il problema, il modo che noi abbiamo di affrontare le questioni. Hai citato il teatro. Il teatro, vabbè, fa parte anche questo, no? Come grande espressione culturale, direi che è importantissimo il teatro. Ricordiamoci che nel passato, nell'Ottocento e così via, il teatro ha avuto un'importanza fondamentale nella costruzione di una coscienza di classe. Il teatro è stato l'elemento, direi, principale nella trasmissione di certi valori, di certi contenuti. Oggi abbiamo dei mezzi che ci stanno demolendo, le televisioni, i media, tutto quanto, anche internet, roba del genere. E quindi basta il telefonino, lo smartphone e così via. Però anche la riproposizione, sono dei gruppi teatrali validissimi, oggi come oggi, che sono ancora in grado di fare dei discorsi di rottura. Ecco, appoggiandosi a questo, appoggiandosi a un lavoro di scavo, a un lavoro di riproposizione, di ricostruzione, di relazione, beh, insomma, qualcosa magari a casa riusciamo a portare. Grazie. Non a caso abbiamo iniziato uno spettacolo teatrale, questo Salone del Libro Politico. Vi lascio rispondere alla domanda. Ma io mi trovo un po' in difficoltà anche rispetto a questa domanda, perché probabilmente parte dal presupposto, appunto, probabilmente non sei stato soddisfatto dalla prima risposta, della questione dell'editoria come luogo di proposta politica. Invece io sono molto d'accordo con quello che diceva Gomma, che se non si vede a che titolo, diciamo, un editore possa fare una proposta politica. L'editore, ripeto, può proporre una linea editoriale che inevitabilmente nasconde anche dei contenuti politici. E il fatto di mantenere, diciamo, una coerenza rispetto ai temi della contemporaneità, come si dice oggi, cioè il fatto di affrontare con una continuità anche ideologica alcuni argomenti, come possono essere quelli che venivano citati prima, coniugare la questione della Seconda Guerra Mondiale ai fatti di Palestina o ai fatti della guerra in Ucraina, ad esempio, permette all'editore di dare degli stimoli. Poi noi come editore devo dire che quando andiamo a fare dei festival, delle rassegne letterarie, quello che notiamo al nostro banchetto è che il nostro pubblico è un pubblico giovane, nonostante noi proponiamo una saggistica legata alle scienze umane, quindi antropologia, sociologia, estetica, culture visuali e poi politica, economia politica. Addirittura abbiamo fatto una collana di economia politica, e quello che notiamo è che vengono tantissimi giovani. Da dove arrivano questi giovani? Non necessariamente dagli ambiti politici, dagli spazi politici, ma magari arrivano dalle università e magari non fanno nemmeno politica, ma approfondiscono, diciamo, i temi che noi proponiamo attraverso anche i nostri libri, e ci riconoscono come un interlocutore credibile, almeno così pensiamo. Questo per noi come editore è il messaggio più importante. Poi noi ovviamente abbiamo una coscienza e un'identità all'interno della nostra casa editrice, per cui abbiamo anche già comunicato che ad esempio tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici della casa editrice Meltemi lunedì mattina saranno al corteo per la Palestina senza indugio, e in questo senso, diciamo, abbiamo pubblicato diversi libri anche molto scomodi e anche in tempi non sospetti rispetto alla questione palestinese, quando eravamo ancora un po' fermi, secondo me, il discorso del BAT Hamas, e invece adesso, diciamo, le cose iniziano un po' a chiarirsi dal nostro punto di vista. Quindi ecco, diciamo, la difficoltà un po' che ho a rispondere è dovuta al fatto che non riesco a concepire il nostro lavoro come un lavoro che possa produrre una proposta politica. Si getta il sasso nello stagno, come diceva Gomma, e poi si vede quello che succede, ma poi tutti noi fuori dalla nostra dimensione lavorativa, per questo prima richiamavo anche la questione del lavoro come mezzo per riprodursi, facciamo le nostre attività, e quelle sono le questioni centrali, non tanto e non solo i libri che pubblichiamo. Ma adesso in anello la seconda risposta negativa, così faccio il filotto. No, devo dire che in realtà noi sul tema dell'età media dei lettori, cioè, ci confrontiamo quotidianamente con una realtà che sta crescendo sempre di più. Sarà il problema di chi si occupa di storia, di chi si occupa di un certo tipo di memoria, ma effettivamente arrivare ai giovani sta diventando sempre più difficile. Credo proprio la lettura e il libro abbiano un momento di grossa difficoltà, perché ad esempio i podcast o altri tipi di elaborazione sempre sulla memoria storica funzionano molto di più. Quindi credo sia anche un problema legato all'oggetto libro e alla difficoltà che c'è in questo momento di approfondire, insomma, di crearsi uno spazio di lettura e uno spazio di approfondimento. Quindi sicuramente è un lavoro che va incontro a delle difficoltà, ma che, insomma, quotidianamente cerchiamo di sperimentare. No, ho dato la parola a lui perché mi piace sentire parlare le questioni riguardanti la rottura rivoluzionaria e tutto il bagaglio che qui dentro in Conchetta abbiamo sempre parlato degli anni 70, anche se sono stufo di parlare degli anni 70, perché in realtà sono passati quasi il doppio degli anni che i nostri compagni degli anni 70 avevano rispetto alla resistenza. Quindi sono passati tanto tempo e il mondo è cambiato davvero tanto. Però mi piace lo stesso, perché mi fa pensare che la lotta di classe ha il suo tempo, ha il suo respiro, il respiro lungo della lotta di classe. E appunto quest'anno tre miei grandi maestri sono morti, e volevo ricordare Gianfranco Manfredi, Goffredo Fofi e Giampaolo Capisani, che molti non conoscono, ma era nostro collega a Decoder. Quindi un applauso a loro tre, che a me personalmente è andato tanto. Quindi, partendo da questo presupposto e arrivando forse alla cosa più interessante che è stata detta rispetto al fatto che la carta stampata sta diventando sempre più obsoleta, come dicevamo, io sono un terribile ottimista, però nelle nuove generazioni io vedo che sta nascendo una intelligenza, un'intelligenza cognitiva molto particolare, molto diversa dai 15 ai 20 anni, dico, e in effetti lì nessuno legge. È difficilissimo, anche Young Adults, nonostante i tentativi che fa Momo, che sono bellissimi, comunque è sempre un po' difficili. Per questo noi che ci occupiamo di controcultura abbiamo tentato di fare un'indagine a partire dalla musica che ascoltano, che è musica trap, no? La trap è la musica ascoltata dai 15 ai 20 anni, unica. Basta vedere le classifiche di scaricamento dei diversi brani, tutti trap. E lì ci siamo scontrati anche col fatto che il nostro approccio verso di loro è un approccio troppo autoritario, sostanzialmente. C'è bisogno, quindi ci siamo legati anche agli studi decoloniali. Noi dobbiamo decolonizzarsi. I proletari, i sottoproletari delle nostre, che abitano le nostre città, sono arabi, indiani, africani, sudamericani. Con queste persone noi dobbiamo in qualche maniera decolonizzarci noi. C'è un libro che abbiamo fatto che si chiama Etnografie Trap, che è un libro di antropologia, che ragiona proprio su questa frontiera. E quindi io sono convinto che poi torneranno a leggere, perché il libro è approfondimento, l'approfondimento necessario per tutti noi, quello anche noi che dobbiamo lottare, con persino noi, io che ho 60 anni, dobbiamo lottare col telefono per imporci di leggere il libro. Però è necessario, solo così possiamo trovare anche un noi, perché noi abbiamo approfondito in questo senso. La generazione che viene dopo, quella che adesso ha tra i 20 e i 30 anni, con la questione della Palestina, io ho visto una rinascita grossa, tantissime persone giovani nei cortei, come non avevo mai visto. Voi venite a Leoncavallo, 50.000 in piazza, tutta la gente, quanti giovani ci sono. Ma avete provato ad andare alle manifestazioni della Palestina? Quanti ragazzi di periferia che arrivano, per esempio. Vorrei fare proprio una serie di consigli generazionali quasi, e quindi arrivo a quella di Pietro e di Carlotta, che cioè, c'è una fuga dei trentenni, dei quarantenni, c'è una fuga, qui non si stanno più bene, vanno via. Io ho nipoti, amici, amiche, tutti che vogliono andare via, militanti, proprio si sta, è invece una generazione importante di collegamento con questi ragazzi che vivono ormai un concetto anche di italianità, di europei, che è completamente cambiato. Nelle periferie è più facile parlare di una nazione mediterranea piuttosto che di una nazione europea. Parliamone della nazione di una possibile unione mediterranea, che forse è più interessante, almeno per quanto ci riguarda, visto che dobbiamo guardare sempre alla periferia noi. E poi la generazione dei quarantenni, dei cinquantenni, dei quarantenni sono veramente... Mentre invece la nostra generazione, quella che ha 60 anni, quello che cerco di dire soprattutto agli uomini, cerchiamo di parlare più tra noi, forse gli anni 70 vengono ancora buoni con l'autocoscienza maschile, visto che sto tentando di sperimentarla nella mia redazione, quando siamo solo uomini parliamo solo di cazzate. Allora dice no, invece cerchiamo di parlare di cose non, anche più personali, più intime tra di noi. E questo è una cosa che Laura Corradi, quando è stata qua, ci ha insegnato, è stata qua 3 giorni e continuo a pensare che le questioni legate al queerness, legate ai processi intersezionali, ai processi decoloniali, è fondamentale per tutti noi. Scusa che c'è un fischio che mi dava fastidio. Sì, ma io aggiungo solo poco. Molto spesso ultimamente do ragione a Filopat su due passaggi. Allora, uno che è evidente, la questione della fuga, e l'altro che, infatti anche nel dibattito precedente, la questione della lingua. Sarebbe veramente interessante fare lo sforzo, lì sì che secondo me ci sta l'esperimento, di non pubblicare solo in italiano. E allora magari lì ce l'andiamo a giocare in un contesto nuovo. E beh, basta. Avevi ragione, Filopat. No. Scusa, vabbè. Allora, beh, intanto, scusa, volevo risponderti sul personale, non cioè sul politico, più sul personale. Allora, attenzione a considerare, a confondere la fuga con la ricerca. Cioè, limitare i processi migratori o gli spostamenti ad una fuga, secondo me, è veramente frustrante. Ma non tanto per chi la vede, ma anche per chi la fa. Cioè, il mondo è un mondo di migrazioni. E la tendenza ad una ricerca personale, politica, collettiva di situazioni, ambienti altri, mi stupisce che da te venga bollata come fuga. Però secondo me deve essere ampliata di più, ed è forse qui in effetti che si nasconde un pochino quella differenza generazionale, quella forse forma di incomprensibilità del reale a cui Carlotta forse in un certo senso si accennava. Forse è un pochino lì che bisogna andare a ricercare. Non è ovviamente una proposta, magari un invito anche a chi si occupa di editoria politica, anche di editoria universitaria e di editoria militante, cioè cercare di comprendere come in effetti l'editoria riesca, possa, abbia il compito di voglia, non lo so, ognuno secondo quello che gli interessa, essere un ponte attraverso questi due mondi, che siano quello della militanza e quello di un pubblico più vasto, che siano quello dell'università e di un pubblico di lettori interessati o che appunto si possono avvicinare a della tematica. Quindi proverei, buttandola lì, ecco, un pochino a ragionare anche un po' su questo. Ora non so se raccogliere qualche intervento dal pubblico, qualche domanda dal pubblico, o se invece poi voi volete fare un ultimo giro di risposte. Vai. Almeno a me mi devi capire, perché no, sulla questione della fuga hai ragione a fare l'osservazione, ma quando ti capita che io ho un figlio di 22 anni, lui e i suoi compagni, amici, amiche ti parlano di questa roba qua, un po' di disorientamento ti viene, no? Quindi non è che sei così lucido sulla questione della terminologia da usare, e se comunque ti sei sbattuto per cercare di costruire un contesto un po' diverso e poi vedi quelli con cui sei legato anche affettivamente che ti dicono beh, però io adesso vado a studiare a Stoccarda, a Lucerna, a Parigi, eccetera, un po' di ansia ti viene, hai fatto bene comunque a farlo notare. sappi che almeno lato mio c'era un po' di bottarella anche che mi ha disorientato. Immagino la questione personale, e poi ricordo che c'è un mondo là fuori, c'è l'altro giorno in Nepal hanno bruciato il palazzo del governo, nel senso non è che tutto va sempre così male come ci piace tanto raccontare, c'è un mondo vario in cui le cose vanno a volte in una direzione, a volte in un'altra, cioè è come sempre stata una storia. Appunto, ci sono domande dal Flavio? Vai, la fuga. Vieni qua. Allora, voi avete evocato una fuga, la fuga, la questione della fuga. Io non capisco cosa intendete, perché da una parte c'è una forza lavoro obbligata a lasciare il luogo dove poi sei stata formata, cresciuta, magnato, fatto quel cazzo che gli pareva. E dunque questo va compreso già nel contesto, cioè questo è il contesto. C'è uno che ha dai 20 ai 30 anni, dico delle stupidaggini alla cazzo, certamente non ha il luogo di nascita e di crescita come obiettivo finale, oppure come obiettivo della sua maturazione. E per questo credo che di interpretare la vostra idea di fuga in questi termini. No, dove fuggono? In Europa? È una fuga? Fuggono in altri paesi tipo la Russia, l'India? Non vedo. L'Africa? Quanti fuggitivi ne vedo pochi. Non so, era per ridimensionare l'idea di fuga o per dargli un'altra. Va bene, basta tutto qua. Vuoi rispondere? Io vorrei tornare solo alla domanda iniziale, non perché il tema della fuga non sia interessante, però apre tante cose, sono anche state delle cose interessanti sulla fuga. Io mi chiedo, la questione della traccia politica che può lasciare una casa editrice o una serie di case editrici, più o meno siamo lì come questione. Allora, personalmente ritengo che alcuni libri per me, e mi sento dire per noi, tornando a noi, siano stati decisamente delle tracce importanti, dei solchi che poi noi abbiamo modificato, abbiamo spostato e comunque ci hanno dato alla necessità ritornare su quei solchi per avere un confronto, per avere un'analisi più approfondita di quello che stavamo facendo. E penso che sia la cosa comune di tutti, senza stare a fare tante parole su questa cosa qua. Un'altra cosa che fanno i libri è probabilmente questa cosa che durante certe presentazioni ti riconosci in una sorta di appartenenza, di idee, e quindi hai voglia di fare comunità, hai voglia di fare collettivo, mi viene da dire, più che e in questo senso possono essere molto utili. Quindi, malgrado le difficoltà che hanno espresso gli editori naturalmente, e che tutti sappiamo perché tutti più o meno lavoriamo, che sono le difficoltà di chi lavora in generale, comunque noi quando prendiamo un libro in mano prendiamo quella cosa lì e cerchiamo dentro quella cosa lì una storia che ci aiuti a trovare delle direzioni in qualche modo. Personalmente sono uno di quelli che ha fatto anche delle migrazioni brevi alla ricerca di luoghi e persone immaginarie trovate nei libri in certe città in Francia piuttosto che in Asia, piuttosto che in Sud America, eccetera eccetera. Probabilmente è una cosa comune e questo è ancora un compito e un vantaggio, cioè una cosa che offrono l'editoria. L'altra cosa che manca sulla questione politica è se i libri che vengono erogati, e non sono soltanto erogati, vengono prodotti, pensati e fatti girare con le fatiche che sappiamo, se creano partecipazione. Perché io ho voglia di partecipare a una cosa, a una lotta, anche perché sono spinto da questi temi che ho trovato nel confronto. Quindi l'editoria ha una fortissima importanza nelle lotte. Grazie. Volete rispondere su questa? Se il bimbo si sveglia, ve lo dico. No, io volevo solo dire che in questo tavolo si sta parlando tanto dell'editoria da un punto di vista privilegiato, che è quello degli editori, delle case editrici, ma che secondo me, proprio perché è privilegiato, è uno sguardo possibile, all'interno invece di un caleidoscopio di ruoli che coinvolge autrici e autori, lettrici e lettori, bibliotecari e bibliotecari, freelance, editor, libraie di catena, indipendenti. E c'è un problema di mercato industriale che all'inizio veniva citato, nel senso che noi comunque dobbiamo, io credo, fare i conti col fatto che i presidi della lettura, cioè la lettura intesa come pratica sociale e non soltanto come scelta individuale al netto di tutte le altre questioni generazionali, in 10 anni siamo passati a 2200 e rotte librerie in questo paese a 1300. Un terzo dei comuni d'Italia non ha una biblioteca. Il patrimonio librario bibliotecario del nord è 3 volte quello del sud. E lì non parliamo poi delle edicole, che sono completamente scomparse e comunque marginali rispetto a un discorso, diciamo, sull'editoria indipendente politica, ma che invece c'entra il tema della lettura come pratica sociale, come abitudine sociale. Per esempio, nell'ambito bibliotecario, che è quello in cui lavoro, la lettura dal prescolare all'adolescenza compresa è molto forte. L'età lavorativa è completamente persa e poi si rialza. E non è magari la stessa, come dire, la stessa postura che ha invece il pubblico delle librerie, non è la stessa che ha il pubblico delle librerie di catena. Però noi dobbiamo fare i conti anche col fatto che quando scompaiono, e scompaiono soprattutto librerie indipendenti, esattamente come quando le persone che lavorano, le operaie e gli operai dei libri, non hanno un adeguato compenso, noi perdiamo la possibilità di visibilizzare questi libri, che sono al contempo appunto prodotto industriale, purtroppo, e invece fenomeno culturale, liberante, rivoluzionario, tutto quello che volete voi, creativo, artistico, espressivo. Se questi libri vengono invisibilizzati, cioè nei 10 anni in cui dicevo dimezzano le librerie, solo nell'ultimo anno Mondadori Retail ne ha aperte 30. E le librerie di catena significa visibilizzare solo i testi che appartengono, afferiscono alle loro holding, farsi pagare per dare visibilità ai testi degli altri, accordi capestro per ottenere ultra sconti che le altre librerie non possono applicare e via e via e via. Cioè abbiamo un problema di oligopolio che abbraccia, adesso non dico gli stampatori, ma sicuramente tutto il resto della filiera, la promozione, la distribuzione, le grandi holding editrici e le librerie, che è una delle spade di Damocle che pesano sull'editoria indipendente, sull'editoria politica, sulle librerie indipendenti. E per questo mi piacerebbe comunque, non è una domanda, scusate, era un intervento così, per dire che quello che facciamo lunedì, che è la seconda occasione in cui si porta in piazza uno spezzone delle tante anime della galassia editoriale, è certo lunedì anzitutto per un tema ulteriore al resto, che è il genocidio in Palestina, ma è anche un timido tentativo di cominciare a stringere alleanze impensabili, perché chi lavora nella catena non parla con le indipendenti, i freelance hanno problemi con gli editori, anche i nostri editori, però cominciare a stringere alleanze per capire dove colpire, per fare più male, perché se noi dobbiamo essere più bravi, più attenti, più sensibili, più, diciamo, lavorare sull'indigenizzazione oltre che sulla decolonizzazione, però dall'altra parte noi abbiamo a che fare con un mercato. E invece di parlarne soltanto in termini del mercato è cattivo, dobbiamo capire dove colpire per fare male. Vabbè, volevo solo dire, Abo ha detto molto meglio di me quello che intendevo io all'inizio. Poi il mercato è cattivo, questo non c'è alcun dubbio, ma proprio per quello che diceva poco fa Abo, la questione, diciamo, del mercato editoriale, quindi del rapporto tra chi ci lavora, perché ci lavora, quindi non è un'attività latere della propria attività professionale, della propria attività lavorativa centrale, ma è la propria attività, quella con cui si paga lo stipendio, si paga l'affitto, si paga la spesa, si paga le bollette della luce, merita un ragionamento e una riflessione, perché se quello quello è il lavoro di quella persona, mi riferisco ai freelance, ai precari, ai lavoratori in nero, a quelli che lavorano addirittura gratuitamente per le case editrici, questo non va bene. E visto che questa cosa si riproduce talvolta anche all'interno delle case editrici militanti, lo voglio dire con estrema chiarezza, è inutile parlare di progetto politico se poi noi riproduciamo i peggiori vizi del sistema capitalistico, che è quello di non pagare adeguatamente i lavoratori. Questa è una questione, secondo me, dirimente, che ha a che fare con l'unica possibilità di avere un progetto politico vero e proprio. Poi, sempre rispetto a quello che diceva poco fa, cioè la concentrazione del mercato in poche mani, che è una questione che ci vede tutti, diciamo, i presenti qua sicuramente, tutti, come dire, testimoni e vittime di questo meccanismo, forse una cosa che potremmo provare a fare in termini di proposta, e che in passato è già stata fatta, però c'è anche una forma a volte di resistenza e di autoreferenzialità degli editori a metterla in piedi veramente, è quella di creare una rete delle case editrici che sposano una certa linea editoriale, non tanto dal punto di vista, diciamo, del prodotto editoriale, culturale e politico, ma almeno dal punto di vista della promozione editoriale. Cioè ciò che impedisce alle case editrici, sicuramente quelle che sono rappresentate in questi tre giorni, di arrivare nelle librerie, è anche il fatto che ovviamente non vengono aperti gli spazi, e visto che le librerie indipendenti sono sempre meno e sempre messe peggio, bisognerebbe trovare una forma di collaborazione unica che non porti i singoli ad andare, diciamo, direttamente da quella libreria indipendente, i singoli editori, ma creare un collettivo di questi editori. Noi avevamo provato qualche anno fa lanciando questo progetto che si chiamava Booklet e che cercava di fare semplicemente da intermediario, cioè mettere in collegamento tra di loro le librerie indipendenti e un gruppo di editori che tuttora funziona, ma non è mai decollato fino in fondo, e forse potrebbe essere anche, diciamo, un'occasione per poter provare quantomeno a fare un po' di ragionamenti più ampi, oltre alla sede di oggi, anche sulle cose che sono emerse a questo tavolo. Allora, secondo me, ma è anche giusto che sia così, che a un certo punto poi si ritorni alla sollecitazione iniziale di Manolo, che prima o poi sarebbe giusto anche fare, appunto non in questo contesto, però è giusto anche fare, perché comunque ti ritrovi nel contesto del mercato, con le sue dinamiche, in una situazione molto più complicata, dove, per esempio, che non è stata citata, la questione di Amazon. Allora, questo appunto ve lo dico, non è che voglio fare il saputo, però mai mi sarei immaginato che una buona parte dei venduti, dei libri che non si trovano in libreria per le cose che qui sono stati detti, la gente alla fine se li compra su Amazon, perché se lo vuole leggere e non c'è cazzo. Allora, io però sono sempre, accodandomi a Marco, non sono così pessimista. Io credo che, e ribadisco anche per esserci passati in mezzo, anche perché sta roba, qua lo ridico, faccio la figura del vecchio, però in Conchetta qua nel 96 ne abbiamo parlato, quando eravamo forti, quando potevamo costruire un circuito dove noi potevamo avere le nostre librerie come qua in un sacco di altri posti, poi vabbè, sono successe robe, non è andata a finire così. Ma io ritengo che se vogliamo farlo, se si rilanciano questi posti qua, anche con fatica, cioè ho visto al Forte una situazione non così easy come era 15 anni fa, ma loro stanno lottando. Le cose stanno partendo, ci vuole un po' di coraggio. Dico sta roba qua della Shake, che noi non ci avevamo un posto, che abbiamo vinto un bando del comune in vicolo Calusca, un posto assurdo. Abbiamo mollato e alla fine ci siamo presi il nostro posto a Lambrate, perché Raff abita lì, quindi lui di giorno va giù e apre la sede della nostra micro libreria. Allora è un micro esempio, è molto bello perché fai lavoro di quartiere, capisco la difficoltà delle librerie indipendenti, anche se di nuovo in un ragionamento più specifico, ci sono indipendenti e indipendenti, ok? Allora, per dire, ci sono un paio di indipendenti qua che secondo me lavorano, non sono in crisi, fanno un bellissimo lavoro di quartiere con il caffè e diffondono buona cultura. Ma io sono convinto che questa roba, è ovvio che poi ci vuole lo sbattimento, i soggetti, eccetera, può andare avanti. Cioè, dei rimasugli di circuito sono rimasti, ci vuole un po' di coraggio anche a fare quella roba lì, che apri un posto, che vai giù, ti sbatti e lo fai con tutte poi le cose che dice Manolo, secondo me sacrosante, sulla questione della... poi del reddito che ci entra. Se non ci sono altre domande da parte del pubblico, noi vi saluteremmo qui e rilanciamo ovviamente alla fine di questa serata. Non è una domanda, ok? E ovviamente ricordiamo che questa serata finisce alle 10 e domani il piccolo salone del libro politico aprirà alle 11, chiuderà alle 6 e più o meno alle 4 e mezza avremo, io la sbaglio sempre, la Poetry Slam, non Slam Poetry. E quindi niente, godetevi il salone, grazie. Scusate, io volevo accodarmi un secondissimo per fare una cosa che è un misto tra un ritorno sul dibattito precedente e un piccolo spazio pubblicità, per dire che oltre al fatto che domani abbiamo la Poetry Slam e il fatto che ieri abbiamo aperto con una bellissima performance di Camilla Violante Scheller, non è un caso che se torniamo a parlare di linguaggi attraverso cui dire cose complicate, abbiamo fatto 2 ore di profondissime tavole rotonde, abbiamo deciso di fare della nostra locandina, ha fatto una bellissima grafica Elena Mistrello, che è una bravissima fumettista, trovate delle serigrafie della locandina fatte serigrafate al banchetto delle compagne e compagni della Foa Boccaccio e sono bellissime. Lei credo abbia saputo attraverso un altro linguaggio rendere quello che noi intendevamo con le parole per farla, e lei non ha voglia di dire 2 parole, gliel'ho chiesto tipo 3 volte e mi ha detto no, sono molto timida, ma la spiegazione attraverso cui lei è arrivata a rendere con quell'immagine la nostra idea è secondo me molto potente, quindi le trovate là.